Sì, dai, ce lo dica. Chi vuole fare una domanda, signora? Come si chiama? Io? Barbara. Barbara. Chi vuole fare una domanda? Barbara viene qui da poco, però da poco si vedono tante cose. Da quando si è trasferita sente rumori diversi da dove abitava? Sì, una zona tranquilla. Da dove vengo era molto più movimentata. Da dove veniva? Da Bolzano. E Bolzano? Da quanto tempo vive qui? Sarà circa 5 anni. Ah, non poco poco. 5 anni non sono pochi pochi. Chi vuole fare una domanda, signora? Ma da quando che si è trasferita qui è pro o contro Alizzana? Cioè le piace? Sì, mi piace. Mi piace, è una zona tranquilla e